Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È ufficiale l'accordo tra Fiat Chrysler e Google per arrivare a realizzare l'auto senza pilota. Nella prima fase la partnership si concentrerà sulla costruzione di prototipi di minivan e per questo obiettivo FCA fornirà a Google un centinaio di veicoli del modello Pacifica presentato all'ultimo Salone di Detroit, su cui il colosso di Mountain View condurrà i primi test. La fase di sperimentazione della guida automatica potrebbe durare anni, con ostacoli da superare di varia natura, soprattutto legati alla capacità del pilota automatico di reagire all'imprevedibilità delle manovre di piloti in carne ed ossa. Auto senza pilota. Stanno sperimentando in tutto il mondo l'auto senza pilota. L'auto che funziona da sola, cammina sulle mappe di Google e cammina senza bisogno che qualcuno sia al suo volante. Cammina indifferente per le strade, ha tutta una serie di raggi laser, dei sensori laser a 360 gradi che percepiscono gli ostacoli e la fanno deviare. Finora sembra che funzioni, la stanno sperimentando in 3-4 stati degli Stati Uniti, nel Nevada, in California, anche in Inghilterra stanno studiandoci. Finora sembra che vada bene, soltanto un piccolo incidente ad aprile, una è andata a sbattere su un autobus, ma succede normalmente. Sembra che stia funzionando, non sarà per adesso, non sarà una cosa che probabilmente vedremo noi in età utile per poter ancora guidare l'automobile, noi che siamo abbastanza anziani, però ci poniamo un problema. Voi che ascoltate, voi che avete una percezione particolare dell'automobile, che sensazione vi dà l'idea dell'auto senza pilota? Non so, è come un fiore senza petali, un bicchiere di vino senza uva, una donna senza culo, un alpino senza mulo. Insomma, l'auto senza pilota mi sembra un controsenso per un italiano. Come possiamo pensare di avere un'automobile che non la guidiamo? E che la compriamo a fare se non dobbiamo guidarla? Se non dobbiamo sgassare, cambiare velocemente, fare i test a coda, mettere il braccio fuori del finestrino, mettere lo stereo a palla a tutto volume, far vedere quanto siamo bravi, riempirla di accessori? Cosa ci facciamo con una macchina senza pilota? Eppure stanno studiando per mettere a punto la macchina senza pilota. Questa mattina sentiremo esattamente a che punto è la sperimentazione, dove vogliono arrivare. Vogliono delle strade popolate, automobili camminano da sole. Noi pigliamo, entriamo, ci sediamo come se fosse un salottino e va dove vuole. Semplicemente impostiamo la mappa e la macchina va avanti. Non possiamo sgassare i semafori, non possiamo clacsonare, non possiamo sgommare, non possiamo fare le corna, fare segni a nessuno, ma tanto va da sola, tranquilla, si danno la precedenza, si fermano, mantengono i limiti di velocità, fanno tutto quello che bisogna fare. E noi cosa ci stiamo a fare, noi maleducati automobilisti? Oppure semplicemente una sorta di riserva, come il pilota automatico per un aereo. Noi guidiamo, facciamo i cavoli nostri, poi quella a un certo punto, non sappiamo bene ancora se con un dispositivo coercitivo, che ogni volta che noi pigiamo vogliamo andare più forte fregandoci nel limite, no, quella rallenta automaticamente. Ogni volta che pensiamo di farcela, passare un semaforo, ma dai arancione, dai sta venendo rosso, passa, no, lei ferma, inchioda. Ogni volta che noi vogliamo sorpassare, lei dice no, non è prudente. Ogni volta che noi vogliamo fare una maialata qualsiasi, la macchina si ferma. È una macchina che diventa un censore di maialate al volante. Siete d'accordo? Le comprereste lo stesso un'automobile sapendo c'è questo cervello automatico, questo grande censore all'interno? Ecco, sarò sicuramente radiato dall'ordine dei giornalisti per aver messo questo demoniaco rovello nella mente dei miei ascoltatori. Però chiamatemi 800 24 0024. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. La macchina del futuro avrà due posti, un tasto e nessun volante o acceleratore. Google è al lavoro per reinventare il concetto di mobilità creando auto che si guidano da sole. Dalla sede di Mountain View sono già usciti i primi prototipi di veicoli dotati di sensori in grado di eliminare i punti ciechi e di rilevare oggetti in tutte le direzioni ad una distanza maggiore di due campi da calcio, sostiene Google. A bordo solo l'essenziale: cinture di sicurezza, uno spazio per gli effetti personali dei passeggeri, un pulsante di avvio, uno di arresto e uno schermo che mostra il percorso. Google non è l'unica ad aver puntato sui veicoli che si guidano da soli, un progetto su cui stanno lavorando anche aziende come Volvo, Toyota, Mercedes-Benz e anche gli ingegneri dell'Università di Parma che hanno ideato il prototipo VisLab. Certo che io ho posto male il problema, naturalmente l'ho posto in chiave maledetta. Il problema sarebbe da porre diversamente: per una maggiore sicurezza stradale si sta pensando e studiando un'automobile che abbia dei dispositivi di sicurezza che possano supplire laddove il pilota avesse, per qualsiasi ragione, dei momenti in cui non è perfettamente in grado di controllare il suo veicolo. Però devo dire che la mia premessa ha suscitato attenzione nel pubblico. Mi scrive un ascoltatore da Torino: noi che conoscemmo la bellezza della disobbedienza, la sua sacralità, direi. Eh sì, perché il libero arbitrio dell'automobilista è un concetto da difendere. L'automobilista va castigato, bastonato quando compie scorrettezze, però deve avere il libero arbitrio di poterle compiere se si sente in grado di poterlo fare. L'educazione stradale dovrebbe procedere come un principio superiore che dovrebbe essere condiviso, non come una coercizione, è come una sorta di camicia di forza. Poi naturalmente entriamo negli usi impropri dell'automobile. Sai che tristezza fare l'amore in una macchina che si guida da sola. Infrattamento impossibile, temo. Orrore totale. Sì, perché temono che il principio morale inserito nel software di questa automobile impedisce l'infrattamento. L'infrattamento ha sempre qualcosa di clandestino: stradina secondaria, parcheggio abbandonato, fratte nascoste laterali. Però magari c'è una sorta di memoria. Voi immaginate se ci fosse, come per le mappe Google e come il nostro tracciamento attraverso Gmail, anche il tracciamento della nostra automobile. Immaginate mogli, fidanzate o mariti e fidanzate che guardano sul loro smartphone l'infrattamento della macchina della dolce metà. Ah, ti sei infrattato, vedo che con la mappa Google sei entrato in quella zona boschiva. Poi altre persone, macchine senza pilota, per qualcun altro, e dice, è meraviglioso. Però dicono, ma chi paga in caso di incidente? Beh, ancora non capire come funziona. Già pensate chi paga in caso di incidente. Figuriamoci se le assicurazioni non si possono tutelare in questa direzione. 800240024, cosa ne pensate dell'auto senza pilota? Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. No, beh, io volevo un po' intervenire sul discorso dell'auto senza pilota. Detta così, diciamo un po' superfluo, cioè un po' superficiale. Questo è comunque. Che io tempo fa ho visto un documentario sul progetto dell'auto senza pilota, un progetto americano ovviamente, progetto dove vede la produzione di automobili elettriche piccole, dove l'utente chiama, si fa portare sul luogo, non deve essere per forza proprietario, anzi non esiste più il concetto di proprietà dell'automobile, uno paga a seconda del tragitto che deve fare, punto e basta, perché detta così è come le macchine elettriche di oggi, costano il doppio rispetto a una macchina normale, nessuno le compra, anche perché poi per caricarle non ci sono le colonnine. Le stanno mettendo le colonnine, sì, per sì. Quello. Si stanno diffondendo le auto ibride, le auto elettriche, ma sì, anche sì, l'auto senza pilota. È un progetto sperimentale, non sappiamo ancora come sarà usata. No, però è un progetto che io ho visto in questo documentario che va al di là del concetto stesso di macchina proprietà con senza pilota. È un concetto proprio di macchina e di servizio, sistema di movimento. Lei ha visto un documentario su uno degli infiniti progetti che stanno facendo. Le stanno provando in Nevada, negli Stati Uniti. Intanto stanno vedendo come funzionano. Poi il mercato ancora non è stato stabilito che tipo di mercato avranno le auto senza pilota. Arriveremo anche a questo. Anche la caffettiera, quando nacque, probabilmente era un ordigno che doveva servire per fare il caffè per un signore. E oggi tutti abbiamo le caffettiere a casa. Fabrizio ha parlato? Allora, ingegner Francesco Mazzone, buongiorno. Buongiorno. Allora, ingegner Francesco Mazzone, direttore di ACI Infomobility. Vediamo se riesce a darci qualche informazione in più, visto che gli ascoltatori sono ferratissimi, guardano un sacco di documentari, su quello che è allo stato dell'opera il progetto dell'auto senza pilota. Quali sono i possibili sviluppi? Cosa stanno pensando quelli che le stanno progettando? Ma in effetti si tratta di progetti pilota che hanno una qualche concretezza, cioè ormai tutti abbiamo visto che effettivamente almeno in ambienti ben circoscritti o anche in condizioni di traffico diciamo normali, regolari. Oddio, nel deserto del Nevada è facile vedere la macchinina di Google che gira. Sì, in realtà poi le hanno testate anche in città, infatti lì sono i problemi principali, poi derivano dalla convivenza con, come diceva lei prima, con invece con auto tradizionali. Le auto esatto, tradizionali con piloti in carne e ossa, come diceva lei. E quindi insomma, sicuramente da un punto di vista tecnico le cose sono abbastanza chiare già ora. Peraltro devo dire che noi tutti oggi siamo già abituati a un certo intervento della tecnologia a correggere errori di comportamento. Pensiamo nella frenatura oggi rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, come frenano le macchine di oggi, delle esatto, centraline. Oggi già ci sono sistemi di frenata di emergenza che frenano quando si accorgono che all'avvicinarsi di un ostacolo il pilota non frena, o ci sono sistemi di controllo della stabilità in curva, per cui quella libertà che voi evocavate prima, la libertà di trasgredire, che peraltro che porta a conseguenze anche facili da immaginare in termini di sicurezza stradale, poi in realtà già oggi è, per fortuna dico io, è limitata, corretta certo. Ed è limitata, perché se lei prova a fare una magari non in su strada una curva ad alta velocità, gran parte delle auto oggi in vendita hanno di serie il sistema di controllo della stabilità che rimette l'auto comunque nella giusta traiettoria. Sì, gli automobilisti non lo sanno, ma oggi ci sono automobili che hanno non so quante centraline elettroniche all'interno, uno monta, prende, parte, non si rende conto, ci sono già dei meccanismi molto sofisticati. Ma in particolare questa automobile come funziona? Qual è il principio base per cui questa automobile può camminare senza una persona che la guidi? Beh, il principio è lo stesso delle tecnologie di cui abbiamo parlato poco fa, solo che in più si delega completamente al veicolo la guida, quindi non agisce solo in termini di frenata, ma agisce anche in termini di seguire una traiettoria, un itinerario ben preciso. E funziona grazie al fatto che c'è un abbinamento tra i dispositivi di bordo e i vari sensori presenti a bordo e la comunicazione dell'auto verso l'esterno. Le auto ormai sono tutte connesse, quindi basta far comunicare il veicolo con la strada per indicare sempre alla strada qual è la posizione del veicolo, e quindi avendo impostato una certa destinazione il veicolo, la strada comunica al veicolo in pratica quali sono i raggi di curvatura piuttosto che la velocità meglio indicata per poter procedere. Quindi diciamo di fatto è una combinazione tra quello che è a bordo di una macchina e quello che invece è su strada e nell'ambiente. Ecco, la domanda che ci facciamo però, anche se la risposta ci ha dare a lei, ma è abbastanza semplice: perché Google investe in automobili? Noi abbiamo sentito poco fa Google che non voleva partecipare personalmente, però ci ha detto noi non vogliamo costruire automobili. Ma Google naturalmente è interessato alla mappatura dell'umanità e dell'universo, quindi Google poi fornirà le mappe su cui queste macchine si muoveranno. Le strade virtuali che dovranno seguire queste macchine saranno super geolocalizzate e seguiranno una mappa. Beh, loro già hanno fatto una cosa molto molto innovativa che solo pochi anni fa era poco neanche immaginabile, che è quella di mappare, ma con delle immagini vere, tutte le strade delle nostre città, dei nostri territori. E quindi il passo successivo, no, perché voi sapete che andando su queste mappe voi addirittura potete riconoscere dei luoghi, potete vedere fisicamente con delle immagini assolutamente fanno paura lungo sì. L'itinerario. Sì, sì. Il passo successivo è chiaramente combinare questa parte che si ferma all'ambito del mondo esterno al veicolo, portarla a bordo del veicolo, e quindi di fatto, così come noi oggi impostiamo una destinazione e abbiamo tutti questi sistemi cartografici che ci conducono fino a destinazione indicandoci qual è la strada, ma lasciando a noi comunque l'onere e la decisione di se non altro di gestire la velocità e regolare lo sterzo. E in questo caso invece vengono combinate le due cose, per cui una volta impostata la destinazione di fatto l'auto comunica con la strada e la strada gli indica esattamente quali sono i comandi da attivare per seguire quell'itinerario e portare il conducente tra virgolette. Aspetti un attimo ingegnere, sento qualche ascoltatore, ci stanno chiamando moltissimi perché sono abbastanza interessati. Sono un'infinità le domande che si pongono, i quesiti che si pongono. Avere l'auto è tracciabile sullo smartphone dà a tutti una grande euforia, è come fosse un gadget in più. E abbiamo Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sì. La sto ascoltando. Io sarei contentissimo di comprarla oggi, la macchina che si guida da sola. Guardi. sono un entusiasta di questa innovazione. Quindi lei è totalmente controcorrente rispetto, diciamo, al primo trend del nostro pubblico. Qual sarebbe il motivo che le farebbe fare questa scelta? Una comodità, tranquillità, serenità? Una comodità, una tranquillità. Io faccio circa 35.000 chilometri all'anno in macchina, quindi sarei molto felice, soprattutto quando sono stanco, che qualcuno o qualche cosa in questo senso mi conduca tranquillamente alla meta, senza star lì a preoccuparmi del traffico che sta attorno, insomma. Mi dice un ascoltatore, dice furbetto, con i moderni smartphone la tracciabilità dell'individuo è già effettuata, senza introdurre tracciate l'auto senza pilota. Caro, lo smartphone se lo spengo mi tracciano col piffero, se la macchina deve muoversi comunque sia viene tracciata, quella non si muove se non è tracciata. Io a piedi senza essere tracciato posso andare ovunque, la macchina no, si muove solo tracciandola. 800 24 00 24, a tra un istante. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Oggi stiamo capendo innanzitutto qual è lo stato dell'opera sul progetto della cosiddetta auto senza pilota e stiamo vagliando quelle che sono le prime reazioni del nostro pubblico. Abbiamo posto la domanda: ma come vi sentireste a bordo di un'auto senza pilota? Pongono sempre le domande, diciamo, su quello che potrebbe accadere. Un camionista è molto preoccupato, dice: un eventuale blackout, che succede? Se si blocca la rete, si bloccano le mappe di Google e ci si ferma tutti. Molti sono preoccupati dal fatto di chi paga le multe nel caso di incidente, qualcuno avrà pure la responsabilità. Poi molti dicono che l'avrebbero sognato, lo sognano da tutta la vita, un'auto senza autista che non fa domande stupide e mi lascia lavorare. Vediamo Gabriele. Gabriele, buongiorno. Pronto? Pronto. Buongiorno. Comunque, siccome c'è una certa età, io ho fatto un incidente 5 anni fa e non guido più. Sì. Ed era comodo per me e mia moglie, perché stiamo sempre in casa quasi. Dice, siccome sono un pericolo pubblico, mi hanno tolto la patente, con l'auto automatica posso andare in giro praticamente. No, in giro a me in alcuni posti che non ci vado da anni, insomma, San Benedetto, io sto nelle Marche, vicino al mare. Quindi lei potrebbe essere una soluzione per chi non può guidare, o perché è anziano, perché ha dei problemi, con l'auto senza pilota potremmo andare tranquillamente, meglio che avere un autista. Bene, Barbara, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo perché sono abbastanza dubbiosa sul tipo di target di mercato che in generale può avere questo tipo di target. L'Umarell dalla guida pericolosa potrebbe guidare, andare in giro senza essere rischio per gli altri. Tutti i signori col cappello che guidano col cappello, staremmo tranquilli. Vediamo uno col cappello, non dobbiamo immediatamente bloccarci a fare gli scongiuri, tanto c'è la macchina elettrica. Sì, però sarebbe comunque un tipo, una sorta di nicchia. Quindi mi riferivo a questo tipo, come mai vengono investiti così tanti soldi se poi questo tipo di macchina potesse essere rivolta alla massa. È questo che un po' mi preoccupa. Adesso chiediamo al nostro esperto, però io penso, ipotizzo, poi mi correggerà o mi smentirà, che sia più un sistema di seconda sicurezza, un po' come il pilota automatico in un aereo, per dare un vantaggio di sicurezza in più nell'automobile e di rilassatezza nei lunghi percorsi. Immagino uno mette il pilota automatico e si tranquillizza, ecco, può andare tranquillo. Forse se stanno studiando, non è che fanno investimenti non prevedendo, sono persone sotto, già prevedono e già hanno in mano quello che accadrà da qui a 10 anni più o meno, quindi se fanno questo tipo di investimento evidentemente poi ci sarà un target di mercato. Andrea, poi sentiamo l'esperto. Andrea. Ciao Gianluca, sicuramente sarà una grande innovazione, ne parleremo fra 10-20 anni. Sì, penso anch'io. Io faccio oltre 100.000 chilometri all'anno in auto e in questo momento sono in auto, non mi fido dei navigatori che mi hanno già portato in braccio all'orso, sicuramente non potrei viaggiare sereno, tranquillo al momento con un'apparecchiatura, sicuramente fra 20 anni sarà funzionale, adesso non ci penso minimamente. Però rispetto ai navigatori, se rende conto, questa sarebbe, lo ipotizzo, diciamo, un pretesto per Google di mappare continuamente il mondo, mentre adesso, diciamo, per rinnovare le mappe di Google, la macchinettina con le telecamere, periodicamente ci sarebbe una sorta di mappazione continua. Ogni volta che cambia un senso unico, Google lo sa e cambia immediatamente la mappa. La garanzia dovrebbe essere una mappatura totale e a tempo reale sul mondo, penso, immagino, se no altrimenti questo non si potrebbe spiegare. Allora, ingegner Francesco Mazzone, ricordo, direttore di ACI Infomobility. Vediamo sulle domande dei tanti ascoltatori. Sì, sicuramente. Qual è il business di questa roba qua? Si chiedono. Il business, come diceva lei, se lo saranno chiesti, anche noi un po' ce lo chiediamo, ma la risposta l'abbiamo. Questa innovazione accompagna la rivoluzione che stiamo vivendo in termini proprio di approccio alla mobilità. Non dobbiamo immaginare che ognuno di noi compri un'auto senza pilota, certo, necessariamente, no? Ma queste auto saranno disponibili su prenotazione. Io chiederei di averne una sotto casa a una certa ora, scenderei, la prenderei e mi farei condurre dove decido di andare. Ma dovrebbe avere una sorta di pista ciclabile dove vanno solo le auto senza pilota, secondo lei, in un'ipotesi? Ma sicuramente nel momento in cui, fino a che ci sarà convivenza con gli altri veicoli tradizionali, potrebbe essere una soluzione, ma sicuramente c'è da porsi il problema di quanto tempo durerà questa transizione, perché in un mondo in cui tutte le auto fossero senza pilota, al di là di chi vuole continuare ad avere il piacere della guida, e credo ce ne siano ancora diversi, sarebbe tutto perfetto, no? Paradossalmente. Vabbè, andranno negli autodromi, come chi ha il piacere di sparare. Oggi non è che spara la gente per strada come una volta, ma va al poligono, è la stessa cosa. Vanno all'autodromo e si divertono. Forse sì, una cosa. Però intendo anche il piacere di guidare o il piacere di decidere quali strade percorrere, o insomma, non affidarsi completamente a. Però io immagino, ingegnere, mi segua se il ragionamento secondo lei è condivisibile, gran parte del trasporto pubblico, il car sharing, su corsie dedicate, oggi il problema delle città è che le corsie dedicate in realtà non sono rispettate, su corsie dedicate che abbiano, diciamo, l'intransigenza e l'invalicabilità di un muro, di un binario, avere un'automobilina autoguidata che ti viene a prendere sotto casa, ti porta in dei percorsi stabiliti, come se fossero le fermate di un autobus, beh, sarebbe già un passo avanti. Ma infatti il primo passo che io vedrei è proprio quello, perché così si evita anche il tema di dire ma quando deve intervenire l'automatismo e quando invece voglio riprendere il controllo della. Quello sempre, tanto va da sola, auto. Su una strada dove ci sono solo quelle, stiamo tranquilli. Esatto, però calcoli che queste barriere più creano altri problemi a livello di vivibilità delle città, lo vediamo anche nelle corsie riservate ai tram, in cui più sono separate fisicamente, è vero che sono rispettate, però sono anche poi creano delle barriere poi tra una parte e l'altra delle strade, creano altri problemi, diciamo, di vivibilità delle città. Io ipotizzo però, ingegneri, che le parti sensibili delle città, come i centri storici, dovranno cominciare lentamente a farsi una ragione del fatto che potranno gestire soltanto un certo tipo di viabilità. Non si ammette più di vedere cose come si vedono nelle città di Roma, ad esempio, macchine in sesta fila di fronte a luoghi di valore storico, architettonico, che poi hanno anche un degrado concreto e materiale, degrado della vita, degrado dell'aria, via dicendo. Pian piano questa potrebbe essere l'alternativa, no? Siamo tutti d'accordo, il tema è offrire sempre delle opportunità di spostamento, perché la, come si dice in gergo tecnico, la domanda di mobilità non è comprimibile oltre un certo limite, quindi la gente deve spostarsi, vuole spostarsi, ha il piacere di spostarsi, per cui se gli viene impedito di spostarsi con un certo veicolo perché giustamente ingombra, inquina, dargli l'alternativa, deve avere comunque un'opportunità, e oggi già viviamo fenomeni nuovi tipo il car sharing che aiutano ad andare in quella direzione. Allora sentiamo Franco. Franco, buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Torino. Era solo una provocazione che forse in parte ha già risposto il signore che mi ha preceduto, ma quelle belle cose che uno guida senza sapere dove andare per rilassare la mente, per pensare, per fare. Vuol dire come una macchina senza volante, senza senza nessun accessorio, come può fare? E inserisce nel software il programma Random e decide la macchina dove andare. Immagino, non lo so, penso. Programma random, come vede, tante volte uno sceglie la musica, sceglie random, dice viene quello che viene, sceglie itinerari random e si lascia. La deriva la decide il mezzo, non la decide il nostro estro, immagino che sia questo. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Nicoletti. Io sono un tassista di preoccupato, Milano. Molto preoccupato. Una trasmissione molto interessante. Lo dicevo, è molto preoccupato Giuseppe per questo. No, preoccupato no, dico la verità, no, perché conosco la difficoltà di guidare in una città come Milano, Napoli, Roma. Una macchina senza autista probabilmente si fermerebbe dopo 10 metri perché qualcuno gli taglia la strada. Però lei, come abbiamo sentito, il primo step sarebbe avere delle corsie invalicabili e vanno soltanto queste auto automatiche. Sì, probabilmente sarà questo uno dei tanti motivi, però comunque volevo portare un valore aggiunto a quello che dicono. Ecco, vediamo se riusciamo a recuperare il nostro amico tassista. Giuseppe, c'è ancora? No. Ah, Giuseppe è caduto. Voleva sapere, naturalmente, relativamente alla sua professione, cosa potrebbe accadere, perché dice la provocazione era, cioè, io compro un'auto automatica e la mando a lavorare al posto mio. Giuseppe, eccolo. Ci sono ancora. Qual era la sua domanda? La cosa simpatica che volevo proporre, così, visto che ci accusano che noi siamo così contrari alle nuove tecnologie, io proporrei a questo punto: acquistiamo, tutti i tassisti acquistano questa macchina e li mandiamo fuori a lavorare. Cioè, noi mandiamo fuori la macchina a lavorare, così siamo pro tecnologia e via discorrendo. Ma qual è il valore aggiunto che date a queste auto che tanto vanno da sole? Le lavate comunque la sera? Ci accusano che molto spesso abbiamo paura della concorrenza. Se questa qui dovrebbe essere comunque una concorrenza, io do a loro tutta la responsabilità di fare incidenti, di fare, sì, il mio lavoro. Io capisco che è la categoria più minacciata in questo momento da questo tipo di tecnologia, perché se l'automobile che guida da sola comincia a diventare un mezzo di pubblico servizio, almeno nella prima fase, è chiaro che il pubblico servizio elimina totalmente l'intervento umano. Però anche quando hanno creato i primi telai a vapore ci furono delle proteste, ci toglieranno lavoro agli operai, poi in realtà il mondo del lavoro si è stabilizzato anche in quella direzione. Ingegner Francesco Mazzone, ha qualcosa da dire al primo tassista preoccupato che ha telefonato? Ma che servirà ancora molto molto tempo, e quindi diciamo farà in tempo andare in pensione noi, tranquillamente, diciamo. Sì, dovremo ripensare alle nostre professioni un po' tutti, se questo modello di rivoluzione della mobilità si attuerà piano piano, ma non ci metterà più meno di 15 anni o 20. Se lo dice lei, che è un ingegnere dell'ACI, tanto più lo può pensare chiunque abbia a che fare comunque nel mondo della mobilità. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Ora stanno progettando le auto senza autista, cioè guidano da sole col computer. Ma se si guasta? Se una faina salta sul cofano e manda a monte tutto il sistema della macchina? Ma metti che io mi voglio fermare, io, all'autogrill, perché voglio comprare una cacciotta gigante. E invece lei non vuole. Allora dico, guarda, no, devo fermarmi, devo andare in bagno. E lei mi risponde, non è previsto dalla mia tabella di marcia. E mi fa morire di prostatite. Ma perché magari la macchina che non ha l'autista ha un brutto carattere, fa di testa sua. Oppure voglio andare dove abito io, a Celle, invece mi porta a San Vittore. Ma no, è un penoso equivoco. Voglio andare a Bari e mi ritrovo a Bali, per una svista, per una lettera al posto di un altro. Cose che capitano tutti i giorni. Signora, quante volte SMS, WhatsApp, sbagliato. Questo naturalmente è il tipico umarel pensiero, è il luddismo portato a livelli di contemporaneità, il timore dell'autonomia della tecnologia rispetto al libero arbitrio umano. Ma naturalmente non sarà così, nessuno scoppierà di prostatite perché l'automobile non si ferma, il sistema di controllo permetterà comunque di fermarsi al casello, non è che va vista come una costrizione. Quelli che stanno immaginando questa automobile la immaginano probabilmente per scopi che noi non immaginiamo nemmeno, almeno lo scopo finale, ma perlomeno da quello che stiamo capendo con il nostro esperto, in una prima fase fase potrebbe essere una valida alternativa alla congestione di traffico, ad esempio nelle città, un valido servizio per il trasporto pubblico, per un'alternativa al car sharing. Lo dico anche per l'ascoltatore, non dovrei citarle queste persone perché godono tantissimo essere citati, ma quello che mi scrive Nicoletti: fa una trasmissione su un qualcosa di cui non si è neanche minimamente informato. Bravo, signore, io non faccio il tuttologo, io faccio domande, do strumenti, mediando naturalmente, questo è il mio mestiere, di comprensione rispetto a domande che potrebbe farsi chiunque. Non è che faccio uno studio applicato di ingegneria alla scuola Radio Elettra per dirvi quello che vi può dire benissimo l'ingegner Francesco Mazzone, che studia, vive e lavora proprio per rispondere a queste domande. Allora, rispetto, diciamo, al timore che la tecnologia prenda la mano sull'autonomia umana, non credo sia questo proprio lo scopo di chi sta pensando questo tipo di automobile, ingegner Mazzone. Ovviamente chi si oppone al progresso tende a estremizzare, no? Quindi a ipotizzare scenari, certo, catastrofi, automatizzato, libero arbitrio non c'è più, eccetera. In realtà ci saranno delle opportunità importanti per chi non può guidare. Prima abbiamo sentito un ascoltatore che aveva giustamente voglia di girare e non poteva più farlo per un incidente. Penso che un portatore d'handicap quanto sarebbe facilitato comunque. Esatto, molti sarebbero facilitati, anche se devo dire che poi questo ha un rovescio della medaglia, che è il fatto che la domanda di spostamenti sarebbe un po' fuori controllo, nel senso che anche chi oggi non si muove sarebbe portato a muoversi e comunque genererebbe più traffico, e specialmente si potrebbe avvenire un fatto negativo, che diciamo, utenti del trasporto pubblico potrebbero invece scoprire quanto sia più comodo utilizzare queste autovetture. Questo, cioè, meglio che stare stipati in un autobus, una metropolitana, avere tanto automobile. A questo punto l'automatismo si sposterebbe, secondo me, anche sui mezzi di trasporto. Già ci sono le metropolitane senza pilota. Già ci sono, e tra l'altro ricordo un aneddoto che per ridurre il rischio di paura dei passeggeri dal essere a bordo di una metropolitana a guida automatica, qualcuno si inventò il pilota, l'autista di metropolitana cartonato, no? Ha un cartonato che sembra proprio per compensare un po', perché esiste sempre un po' di gente che è contraria a priori al progresso, un po' di gente che invece è, come dire, a prescindere, favorevole a questo tipo di progresso. Poi in realtà la verità è nel mezzo, come al solito, e quindi ci saranno fasi successive e diverse modalità di introduzione di questi. Però io sono convinto, ingegnere, che il mondo andrà in questa direzione. 10 anni fa ritenevamo tutti impossibile che un essere umano potesse connettersi con migliaia di altri esseri umani contemporaneamente. E dove andremo a finire? La gente non si guarderà più in faccia, non esisterà più l'amicizia, i rapporti moriranno. E oggi ogni settantenne ha uno smartphone in tasca dove c'ha tutti i nipoti sotto controllo e il mondo va avanti lo stesso. Mauro, buongiorno. Buongiorno, ciao a te, Gianluca Nicoletti, provocatore positivo. Vedo 65enne un'utilità nel trasferimento, voglio andare da Milano a Venezia, posso dormire, fantastico, che godere, dormo mentre viaggio e arrivo a destinazione. Lo sai, lei mi ha tolto proprio una mia fantasia. Io, che sono un grande dormitore di treno e d'aereo, non vedo l'ora di sedermi per dormire, e dormo per tutto il viaggio. Lei pensi, i viaggi li faremmo dormendo. Io devo andare a Milano, non è che devo pigliarmi 7 caffè e farmi venire il patema d'animo perché devo guidare, devo comunque stare. Dico, io me lo faccio dormendo, io ci vado di notte, è come avere un vagone letto, un autoletto, ma arriva l'auto già imbrandata sotto casa, già con il letto tranquillo, con i cuscini, i piumi, entro dentro, mi metto in pigiama non lo porto, però mi metto come dentro la macchina, mi faccio una bella dormita, la mattina mi sveglia con il caffè, con l'alba, preparo e esco. Ci fosse anche la doccetta sarebbe meglio. Comunque vede che ci sono anche degli scenari positivi. Paolo, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno Nicoletti, sono Paolo. Allora, io faccio 80.000 km d'anno, quindi penso guido abbastanza e non sono contrario al progresso, però con il navigatore, come ha detto l'altro ascoltatore che ci porta nelle braccia dell'orso, i navigatori attualmente... Mi spiega che vuol dire nel braccio dell'orso, non conosco la battuta. Non la conoscevo neanche io, l'ho sentita. Nell'orso, hai l'orso perché va a finire in bocca al lupo, sarebbe una cosa del genere. Ma allora, cioè, i navigatori attualmente, io ho una Mercedes con un Becker, che è uno dei navigatori migliori, dicono, le assicuro che sbaglia, mi fa fare di quei tragitti, di quei giri lunghi, mi allunga. Dove io so e conosco esattamente la strada, abbandono il navigatore, vado meglio. Dove non la so, devo affidarmi a lui e spesso mi rendo conto che non è preciso. Quindi, se vogliamo fare l'auto che guida da sola, bisogna migliorare il navigatore. È vero che lui ci porta a destinazione, comunque, è vero. Però fa fare giri spesso più lunghi. Tutte le tecnologie hanno questo momento di impasse. Lei pensa a quelli ma questa, come vuoi mettere fatta la pasta fatta a mano invece fatta con la macchina? Vuoi mettere una foto fatta col vecchio sistema e una foto digitalizzata? E vuoi mettere il tavolino fatto dal vecchio falegname con la pialla e la sega e quello fatto invece al pantografo? Campiamo tutti lo stesso e campiamo tutti meglio con le cose fatte velocemente e fatte razionalmente. Antonino. Pronto, buongiorno. Cosa teme lei? Ma io in un futuro in cui, diciamo, le macchine siano solo di questo tipo, cioè vorrei capire come si rapporta questa auto a un'emergenza in cui io magari devo andare all'ospedale perché mia moglie, non so, magari è incinta, sta partorendo, anziché aspettare l'ambulanza, di solito via, si prende la macchina e si va all'ospedale. Diciamo anche con una certa premura, una certa fretta, ecco. Sì, ho capito, come una volta c'erano le mamme, mi raccomando, metti le mutande pulite, perché tante volte devi andare all'ospedale, c'è sempre un ospedale in cima alle nostre paure. Ingegner Francesco Mazzone, vediamo se riusciamo a riportare in questi ultimi 30 secondi, in termini reali, dove sta la sperimentazione, cosa stiamo... Le emergenze andranno gestite come oggi vengono gestite le emergenze sul trasporto pubblico, sui treni, sugli autobus, sui taxi o sulle auto del cascere, quindi saranno sicuramente previsti dei sistemi per cui si ha la possibilità di bloccare tutto e di chiamare un'assistenza. C'era sempre una chiave di sicurezza, un pulsante di emergenza, come c'è negli ascensori, ci sarà anche nelle auto. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie al professor Chiappini e grazie all'ingegnere Francesco Mazzone dell'ACE. Abbiamo oggi parlato delle auto elettriche del futuro, quelle che andranno da sole.